Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon a cura del caso S. Van Loon come Henrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il progetto di comunicazione storica intrapreso da un gruppo di studentesse e studenti a Bologna. Saranno proprio loro a proporci ogni due settimane spunti di riflessione ed approfondimenti su tematiche a carattere storico, anche se non mancheranno i riferimenti all'attualità. In questa puntata si parla di Radio Alice, emittente bolognese dalla vita breve ma decisamente intensa. Buon ascolto. Radio Alice per servirla. 100 MHz tondi tondi con Garibaldi al violoncello e Rintintin allo scacciapensieri. Una specie di costante esperimento del livello normale, della realtà perduta nei tribunali sonori, cui rispondiamo zut. Tranquilli, siete sempre su Radio Città Fujiko e nessuno di noi è impazzito. Le parole che avete appena sentito sono sempre di un'emittente bolognese, ma ormai scomparsa da 35 anni. Era il marzo del 76, quando con una vecchia apparecchiatura militare iniziò quel magico esperimento che cambiò il volto dell'ete. Nasceva Radio Alice, sicuramente una delle tante radio libere della stagione dei 100 fiori, ma che per l'innovazione del suo linguaggio, della sua capacità comunicativa e del rapporto col movimento, è stata l'esperienza più rappresentativa del lungo 77. Sovversiva, provocatoria, dadaista, demenziale, innovativa nella tecnologia e nella scena politica. Radio Alice si definiva una radio mao-dadaista. Voleva cioè mettere insieme lo spirito provocatorio dei dadaisti e lo spirito della rivoluzione culturale cinese. A livello politico non era un'espressione da prendere troppo sul serio, in quanto il rapporto con la figura di Mao era superficiale ed ironico. Infatti non vi fu mai da parte del movimento creativo bolognese un'adesione al maoismo dogmatico dei marxisti-leninisti. Mao era visto come una figura pop e le guardie rosse come dei tipi bizzarri che si battevano contro ogni ordine repressivo. L'accostamento col dadaismo voleva essere il tentativo di ironizzare sul dogmatismo di alcuni ambienti della sinistra estrema. Attraversata da tantissime anime, rigorosamente senza palinsesto se non con l'eccezione di qualche programma che aveva una certa continuità, come Far finta di essere sani, con interventi in cui, partendo dal corpo, si poteva arrivare al capitalismo, passando per l'amore libero e la medicina. Si potevano seguire lezioni di yoga, sentire jam session, ascoltare favole per bambini verso la sera o deliziarsi con Il racconto digestivo, una serie di letture torbide e un po' porno. Non mancava la controinformazione e il bollettino politico. Ma se la controinformazione voleva ristabilire il vero, come fa uno specchio, questa radio fece un passo in più. Andò al di là dello specchio. Ciò che distingueva Alice dalle altre esperienze radiofoniche fu infatti il suo linguaggio inteso come il livello di trasformazione della vita, cioè non più mezzo ma pratica di mutamento della vita, dei rapporti sociali e delle condizioni di lotta. Chiaro esempio delle riflessioni attorno alla comunicazione fu il telefono. L'emittente bolognese fu la prima radio a utilizzare la diretta telefonica, divenendo così punto di riferimento per tantissime persone che si raggruppavano per ascoltarla. Veniva annullata così la differenza tra chi trasmetteva e chi riceveva. Radio Alice era una delle tante soggettività del movimento che non cessò di parlare neanche nei giorni del marzo bolognese, quando dopo l'omicidio di Francesco Lorusso da parte delle forze dell'ordine, migliaia di persone invasero il capoluogo emiliano. In casi di manifestazioni, cortei e momenti di tensione, l'emittente funzionava un po' da cellulare, trasmettendo le telefonate di chi si trovava in strada o in piazza. Ci sono tantissimi motivi per cui Radio Alice esprime le tante caratteristiche di quell'esplosione di amore collettivo che è stato il movimento bolognese. Innanzitutto ha colto l'importanza dello sviluppo tecnologico e della comunicazione intesa come azione e informazione. È stato un aggregarsi di esperienze culturali e innovative. Romantica, libertaria, divertente, politica e allo stesso tempo innovativa ed efficace. Il tutto in un periodo conflittuale e complesso, che è bene affrontare senza ricadere in futili nostalgie o astratezze. Il marzo 77 è segnato anche dalla violenta repressione governativa che colpisce senza esitare anche le radio. Alle 23.15 del 12 marzo 77 un plotone di polizia penetra nei locali di Radio Alice. I redattori vengono arrestati con le accuse di istigazione e associazione a delinquere. Le apparecchiature furono distrutte o sequestrate. Il giorno dopo la radio reprì sotto il nome di Radio Collettivo 12 marzo. Chiusa dalla polizia, il collettivo trovò ospitalità presso Radio Ricerca Aperta, che venne chiusa di nuovo poco dopo. Quei giorni di marzo furono molto particolari, tra arresti, feriti, chiusure di radio, cortei in continuazione. Creatività, divertimento, riappropriazione di corpi, tensione politica e innovazione. Tutto ciò si mescolava all'odore dei lacrimogeni. Terminava così la straordinaria esperienza di Radio Alice, che rappresentò per un anno la possibilità di parlare in prima persona, esprimendo col proprio dialetto i propri bisogni e praticando la radicale esclusione di chiunque si erga a portavoce di altri, di chiunque non pratichi le cose che dice. Vi salutiamo con un'ultima citazione e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org. Un'altra telefonata in diretta, la più bella ricevuta. Non parla nessuno, suona solo un sax per un paio di minuti. Siamo sicuri fosse Majakovskij.